c'è, se c'è un pazzo che pronuncia frasi incomprensibili ignorato dai passanti. Che c'è, se c'è la crew che giù in provincia con soggetti validi esprime metriche pesanti. Se c'è un padre che denuncia un prete per molestia al cresta ai propri figli, questo non è il migliore dei mondi possibili, ma solo uno dei tanti. Uno dei tanti. Che c'è, se c'è un pazzo che pronuncia frasi incomprensibili ignorato dai passanti. Che c'è, se c'è la crew che giù in provincia con soggetti validi esprime metriche pesanti. Se c'è un padre che denuncia un prete per molestia al cresta ai propri figli, questo non è il migliore dei mondi possibili, ma solo uno dei tanti. Uno dei tanti. Che c'è, se c'è gente che pretende risultati in tempi utili con la forza dei loro contanti. Uno dei tanti, sì, ma per i più bastardi qui la risposta sta nei gesti più insignificanti. Smi, conta percepire certi istanti, togli il filtro che hai davanti, scopri il mandante. Lenzuola troppo corte per un letto troppo grande, milioni di domande non risolte sotto conservanti. Attenti, che tempo fa per i perdenti, calamità sui continenti, dominio dei potenti, un mondo di mercanti, trionfo degli stenti, brutti presentimenti, il migliore dei mondi come nei racconti. Comunque tu la prendi, tutti felici e contenti, pronti per la comparsa dentro la finzione, sconti per chiunque mette il culo a disposizione, energie sprecate in una confezione, errori che restano come i segni di una colluttazione. Liberiamo l'etere dal lucro, diffondiamo storie vere dentro al buco dell'esubero, riempiamo questo muro con il suono più pesante, crossiamo i segni di questo pressing asfissiante, ritornano in porci ciò che deve essere importante, cultura del permesso, propaganda devastante. Che c'è, se c'è un pazzo che pronuncia frasi incomprensibili ignorato dai passanti. Che c'è, se c'è la crew che giù in provincia con soggetti validi esprime metriche pesanti. Se c'è un padre che denuncia un prete per molestia al cresta ai propri figli, questo non è il migliore dei mondi possibili, ma solo uno dei tanti. Uno dei tanti. Il migliore dei mondi come nel migliore dei modi, sogno spesso ad occhi aperti e piedi nudi, mari chiari, piantagioni, un sound underground in tutti i locali e fuori, la gente ubriaca fa l'amore per strada, tu fai l'amore con i fiori nei cannoni di ganja, mangia tutto il mondo grazie alla ricerca, le malattie sono un ricordo come il tempo della pietra, tra Pietà e Gioconda vedo una metro dipinta, accendo la TV perché c'è solo qualità in onda, l'Italia la governa mamma, il campionato lo vince Ragusa con il coach in panca, e mentre canta e mentre se la scialla nella spiaggia gialla come l'oro, vedo due tipi con bicchiere di Sunrise in mano, faccio come loro, visto che ho regalo, il baracchino ha deciso, tutti col cocktail in mano, e mano a mano un ambriacame e cantavo, la merda è morta col conio, al mondo c'è solo il buono. Ah, onomatopeico suono di soddisfazione piena come la diga della mia rima, tutti in fila ma solo per sta giostra mai più imposta, infine sposta la media della vita in avanti, 150 anni, in fondo basta immaginare nuovi mondi. Che c'è, se c'è un pazzo che pronuncia frasi incomprensibili ignorato dai passanti. Che c'è, se c'è la crew che giù in provincia con soggetti validi esprime metriche pesanti. Se c'è un padre che denuncia un prete per molestia al cresta ai propri figli, questo non è il migliore dei mondi possibili, ma solo uno dei tanti. Uno dei tanti. Che c'è, se c'è un pazzo che pronuncia frasi incomprensibili ignorato dai passanti. Che c'è, se c'è la crew che giù in provincia con soggetti validi esprime metriche pesanti. Se c'è un padre che denuncia un prete per molestia al cresta ai propri figli, questo non è il migliore dei mondi possibili, ma solo uno dei tanti. Uno dei tanti.